tratta di un'iniziativa pubblica, questa di sabato 8 alle 17.30 al centro Costa in via Alto Gardino, che si inserisce in un progetto al quale noi di Camilla, della cooperativa Camilla, abbiamo partecipato come partner e della ONG We World, che è capofila di questo progetto. Il progetto ha riguardato il finanziamento per la realizzazione di un impianto per la depurazione delle acque reflue. Questo impianto è ubicato in un villaggio, in un paese piccolo della zona di Nablus, in Cisgiordania, dove appunto noi siamo stati lo scorso giugno. Il villaggio che si chiama Beit Dajan. In questo villaggio abbiamo conosciuto e approfondito la situazione in quella zona, con riguardo specifico a dei piccoli produttori che in quelle parti si occupano essenzialmente di agrumi, viti e olive per la produzione poi di olio di oliva. Il progetto è interessante anche per noi di Camilla, perché tratta di cibo, di agricoltura, di accesso alla terra e all'acqua. L'accesso all'acqua è un problema che sarà sempre più critico anche alle nostre latitudini. Oggi già lo è nei territori palestinesi, non per problemi di carenza idrica, ma per problemi legati alla presenza in quei territori dell'esercito israeliano e di Israele, che fondamentalmente controlla l'accesso all'acqua da parte della popolazione. L'acqua è uno strumento di questa specie di guerra, ovvero sia di colonizzazione che Israele sta applicando nei confronti della Palestina. Esatto, è per questo che anche negli incontri che faremo in Italia, qui a Bologna, quindi in particolare in questo dell'Otto, l'attenzione è, visto che avremo la presenza di 3 dei produttori, dei beneficiari di questo progetto che vengono dalla Palestina, il focus è molto anche sulla situazione dei territori legati all'accesso all'acqua, all'esproprio di acqua, a water grabbing, cioè al mancato accesso all'acqua da parte dei produttori e da parte dei cittadini di molte zone della Cisgiordania e naturalmente anche di Gaza. Per cui in quella serata l'approfondimento e la conoscenza saranno verso i produttori, verso la situazione, grazie a interventi di alcune persone che sono presenti. Molte di queste sono esperti, attivisti e persone che hanno da tempo la situazione nei territori palestinesi, per cui avremo Raffaele Spiga, che è un attivista per i diritti umani, che quindi introdurrà in generale la situazione nei territori, e poi andremo anche con degli aspetti tecnici al perché un impianto per la depurazione delle acque reflue ha senso, visto il contesto di cui abbiamo parlato. Quindi avremo una relatrice, Alessandra Bonoli, che è una professoressa di ingegneria del Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica e Ambientale, che si occupa di questo tema anche in Italia, e poi altre persone, tra cui appunto Roberto Cerrina, che è un cooperatore esperto di una situazione simile a Gaza, che ha gestito lui. In più vedremo poi un video documentario breve realizzato appunto a Beit Dajan nel periodo in cui siamo stati noi, con delle interviste, quindi anche un momento di qualche minuto carino e simpatico anche per poter vedere dal vivo i territori in cui siamo stati. Poi concludiamo con un aperitivo palestinese a cura di Chow Kebab, che è un po' un luogo di Bologna noto per la cucina palestinese, e anche con un accompagnamento musicale. Tutto si inserisce in un programma che abbiamo preparato. In più si inserisce nel contesto del Terra di Tutti Film Festival. In più, per 3 giorni, con la presenza dei produttori che vengono dalla Palestina, abbiamo un ricco programma di altre cose che coinvolgono anche gli altri giorni, come il venerdì sera una cena palestinese al centro 2 agosto in zona Saragozza con Passo Nomade e altro. Potete vedere tutto, si può vedere tutto sul nostro sito camilla.coop. Questa è una delle tante iniziative che Camilla propone al suo interno per i soci, ma anche non solo. Questa iniziativa è accessibile a tutti. Certo, è un'iniziativa pubblica, quindi per tutti coloro che vogliono venire. Come accennavi tu, Camilla è una cooperativa, emporio di comunità lo abbiamo chiamato, è un luogo autogestito, quindi gestito da soci e soci che garantiscono l'apertura di uno spazio fisico, di un luogo fisico che è aperto praticamente tutti i giorni tranne la domenica, ed è a Bologna nel quartiere San Donato in via Casciarolo, ed è un luogo dove si possono trovare prodotti di vario tipo, che sono, come dire, traduzione, esperienze che si vedono compiute, quindi ci sono progetti sociali e progetti che hanno rilevanza internazionale, come appunto poi si vede nell'appoggio a questi progetti, ma siamo molto attenti al modo in cui si consuma, perché pensiamo, insieme a tutta la nostra comunità, comunità di soci e soci, che è sostenere l'agricoltura contadina e del territorio, biologica, quindi pulita e sana, che rispetta il territorio e gli dà una vita molto più lunga, sia molto importante, non solo per la nostra alimentazione, ma anche da un punto di vista politico e di agire quotidiano. Quindi il far parte della nostra cooperativa dà la possibilità di sostenere quelle forme alternative di produzione e di economia, quindi un'economia che è pulita e fatta da persone che conosciamo in carne e ossa, e quindi la scelta di noi soci è precisa da questo punto di vista: diventare soci per poter fare questo, poter sostenere questo stile di vita, direi, a tutto tondo, che è un po', cerca di essere alternativo e diverso dal solito.